Capitolo 9. Era il luogo più affascinante e misterioso che si possa immaginare. Tutti gli alti muri di cinta erano coperti da una fittissima trama di rosai rampicanti. Su quei rami non c'erano foglie verdi e tantomeno fiori, ma Mary li riconobbe come rosai dalle spine. Ne aveva viste tante in India di piante di rose. Il terreno era coperto di erba secca, bruciata dal freddo. Qua e là si vedevano dei cespugli certamente pieni di rose, un tempo, ora nudi e spogli. Certe piante di rose, non potate da anni, erano diventate come piccoli alberi dai lunghissimi rami che strisciavano fino a terra. Vi erano anche altri alberi nel giardino, alberi alti di cui Mary non sapeva il nome, ma ciò che rendeva particolare l'atmosfera là dentro era che i rami delle rose rampicanti si erano allungati dappertutto e ricadevano dai rami degli alberi oscillando al vento, formando ponti aerei fra un albero e l'altro. Non c'era neppure una foglia verde su quei rami, ce n'erano solo alcune secche accartocciate e Mary non poteva capire se fossero rami morti o solo addormentati per l'inverno. Guardava quel manto grigio-marrone che sembrava steso a coprire tutte le piante, i muri, l'erba che rendeva quel luogo così particolarmente bello. Mary si era immaginata che dovesse essere diverso da altri giardini, pur abbandonati da anni, ma la realtà superava la fantasia. «Com'è tutto fermo, immobile!» mormorò. «Immobile!» Stette un attimo immobile anche lei, ascoltando il silenzio del giardino. Anche il petirosso taceva, appoggiato su un grosso ramo di un albero vicino a lei, la guardava senza neppure muovere la testa. «Questo silenzio sono io a romperlo. Dopo 10 anni», bisbigliò. Si allontanò dalla porta, camminando in punta di piedi, come se avesse timore di svegliare qualcuno. Era contenta che ci fosse erba secca sotto i suoi piedi ad attutire il rumore dei passi. Si inoltrò sotto uno di quegli archi composti dai rami dei rosai che si intrecciavano fra un albero e l'altro e rimase incantata a guardare quella specie di cupola sulla sua testa. «Chissà se questi rami sono vivi o morti», si chiese. «Possibile che in questo giardino sia proprio tutto morto?» Se fosse stata Ben, avrebbe saputo come fare per sapere se una pianta era viva o no. Ma lei vedeva solo quei rami grigi e marroncini, con qualche rara foglia accartocciata dello stesso colore, e non sapeva proprio niente di giardinaggio. In ogni caso, però, era dentro il giardino segreto e avrebbe potuto tornarci sempre. Sapeva dove era la porta, aveva la chiave, quello sarebbe diventato il suo mondo. Il sole brillava fra le mura e racchiudeva il giardino e la volta del cielo sembrava ancora più azzurra e luminosa in questo pezzetto di Misselthwaite. Il pettirosso volò giù dal suo ramo, saltellò e svolazzò da un cespuglio all'altro, sempre seguendola. Si dava un grande affare, voleva fare gli onori di casa, mostrare le cose belle. In quel giardino, così silenzioso e dall'apparenza così strana, sembrava di essere lontani le mille miglia da tutti, ma per qualche misteriosa ragione Mary non si sentiva sola. La cosa che la preoccupava era riuscire a sapere se almeno qualche rosaio fosse vivo ancora dopo tanto tempo, se col progredire della stagione sarebbero spuntate delle piccole foglie verdi su qualche ramo. Avrebbe fatto qualunque cosa perché quel giardino non fosse morto del tutto. I manici della corda da saltare le battevano contro una delle gambe mentre camminava. Così si ricordò del suo gioco preferito e decise di fare il giro di tutto il giardino saltando e di fermarsi solo se avesse visto qualcosa di interessante da osservare attentamente. Si potevano ancora intravedere dei sentieri tracciati fra le aiuole. In alcuni punti c'erano dei berceau con dentro sedili di pietra e grandi orci di terracotta che una volta dovevano avere contenuto piante e fiori, ma ora erano quasi completamente coperti di muschio. Quando giunse nelle vicinanze del secondo berceau, Mary smise di saltare. Dalla terra scura di un'aiuola le era sembrato di veder sporgere dei puntini di un verde tenero tenero. Si era ricordata delle parole di Ben e voleva controllare. Sì, sono proprio piantine che spuntano. Potrebbero essere come ha detto. Crocus, bucaneve o narcisi, bisbigliò in un soffio. Si chinò ancora di più per vedere se c'era un profumo particolare per ogni pianta, ma sentì solo il profumo della terra umida. Com'è buono questo odore, esclamò. Per le piantine è ancora troppo presto, bisognerà aspettare che crescano, che facciano i fiori. Forse ce ne sono altre di piantine. Devo andare in giro a cercare. Attorcigliò la corda su un braccio e continuò a fare il giro del giardino, camminando lentamente con gli occhi fissi a terra. Via via che avanzava, scopriva qua e là ancora di quei puntini verdi e ogni volta era una gioia. Non è morto, non è morto del tutto, esclamò alla fine. Anche se i rosai sono morti, c'è qualcosa che vive ancora qua dentro. Non sapeva proprio niente di giardinaggio, ma osservando le tenere piantine che stavano spuntando, quasi soffocate dai ciuffi di erba secca intorno a loro, pensò che non avevano abbastanza spazio per svilupparsi e crescere. Guardò attorno finché trovò un pezzetto di legno appuntito e con quello cominciò a scavare e a tirar via le erbacce, lasciando intorno ai germogli un pezzetto di terra pulita. Ora respirate meglio, vero? Disse alle piantine dopo aver fatto pulizia attorno al primo gruppo. Voglio fare lo stesso anche per tutte le altre, e se non ce la farò oggi, tornerò domani e doman l'altro. Andò di qua e di là, tirando via le erbacce, smuovendo la terra intorno ai piccoli germogli, e si divertì moltissimo in quel suo lavoro. L'esercizio fisico la riscaldò tanto da obbligarla a togliersi prima la giacca e poi anche il berretto. Il suo viso era sereno e sorridente. Il pettirosso aveva anche lui il suo da fare. Era molto contento di vedere che c'era qualcuno dentro il suo giardino che si occupava delle piante. Lui aveva spesso guardato con ammirazione Ben quando lavorava la terra, perché quel rivoltare le zolle portava alla superficie un sacco di cose buone da mangiare. E ora ecco che un giardiniere strano, assai più piccolo, vestito in modo diverso e assai meno esperto, cominciava a fare gli stessi lavori nel suo giardino. Mary continuò a lavorare fino a che il sole alto nel cielo non le disse che era già mezzogiorno e doveva tornare a casa per il pranzo. Il tempo era volato via, senza che se ne accorgesse. Era rimasta nel giardino 2 o 3 ore. Era così felice e soddisfatta. Negli spazi che lei aveva ripulito ora si vedevano chiaramente dozzine e dozzine di teneri germogli verdi e quel colore scuro della terra tutto intorno sembrava dare loro impulso e forza per crescere meglio. Tornerò nel pomeriggio, promise, volgendo lo sguardo intorno e parlando agli alberi e ai rosai come se avessero potuto ascoltarla. Si avvicinò, correndo sempre in punta di piedi alla porta, l'aprì, la richiuse. E uscì sul viale scivolando sotto i lunghi rami di edera. Marta fu felice di vederla quando tornò a casa così eccitata, bianca e rosa, con gli occhi brillanti, e ancora più felice fu quando la vide mangiare con grande appetito. 2 fette di carne e 2 porzioni di budino di riso. Chissà come sarebbe contenta la mamma di sapere l'effetto della sua corda da saltare. Mentre scavava nel giardino intorno alle sue piante, Mary aveva trovato una specie di cipolla. L'aveva rimessa sottoterra dove era prima, ma era molto curiosa di sapere cosa potesse essere. Pensò di chiedere a Marta: Tu sai cosa sono quelle specie di radici bianche che sembrano cipolle e stanno sottoterra nei giardini? Sì, sono bulbi, rispose sicura la ragazza. Molti fiori primaverili nascono dai bulbi. I più piccoli sono quelli dei bucaneve. E dei crocus, i più grandi, dei narcisi, delle giunchie, dei tromboni. Poi ce ne sono di più grandi ancora, sono quelli dei gigli e degli ireos. Dicon ne ha piantati un bel po' nel nostro giardino. Dicon conosce bene i bulbi? Chiese Mary, seguendo un suo improvviso pensiero. Oh, Dicon sarebbe capace di far nascere fiori da un mattone. La mamma dice che se Dicon soffia sulla terra in quel punto può nascere un fiore. Marta, i bulbi possono vivere per tanti e tanti anni, anche senza cure? I bulbi non hanno bisogno di cure. Si arrangiano da soli. È per questo che anche la povera gente può avere dei bei giardini fioriti a primavera, grazie ai bulbi. Si comprano una volta sola, si lasciano sottoterra e loro ogni anno germogliano. Mettono radici, si moltiplicano. Qui nello Yorkshire ci sono prati e prati di questi fiori, specialmente di giunchiglie gialle, che fioriscono a primavera a migliaia. Chi li ha piantati quei bulbi lì? Chi ha messo il primo bulbo? Nessuno lo sa. Oh, come vorrei che la primavera fosse già qui, sospirò Mary. Sono ansiosa di vedere tutti i fiori e le piante che crescono in Inghilterra. Aveva finito di mangiare e andò a rannicchiarsi sul tappeto davanti al fuoco. Vorrei tanto avere una vanga, una piccola. Tu? Una vanga? Per farne cosa? Rise Marta. Vuoi metterti a vangare? Ah, questo devo dirla alla mamma. Mary guardava le fiamme del caminetto e pensava. Doveva stare molto attenta se voleva continuare ad andare nel giardino segreto. Non faceva niente di male andandoci, ma mettiamo che Mr. Craven si accorgesse che la porta era stata aperta. Certamente si sarebbe arrabbiato molto, avrebbe fatto cambiare la serratura e addio giardino segreto per sempre. Lei non avrebbe potuto sopportare un dolore così grande. Questo posto è così grande e solitario, disse parlando lentamente come a se stessa. La casa è deserta, il parco è deserto, i giardini e gli orti sono deserti. Ci sono tante, tante porte chiuse. Io non facevo molte cose in India, ma là almeno c'era della gente che potevo guardare. C'erano gli indigeni che lavoravano da noi, quelli che passavano per la strada davanti a casa con le loro ceste piene di frutta, quelli che portavano i cammelli a bere al fiume, la banda dei soldati che suonava, la mia Ayah che non mi lasciava un attimo e mi raccontava tante storie. Qui non c'è nessuno con cui parlare, eccetto te e Ben Weatherstaff. Ma tu hai sempre tanto da fare e Ben non è sempre abbastanza di buon umore per parlarmi. Se avessi una piccola vanga potrei trovare un posticino dove lavorare la terra e fare come fa lui. Forse riuscirei anche a farmi un piccolo giardino se lui volesse darmi qualche semente o qualche bulbo. Il viso di Marta si illuminò. Ma guarda un po', ma lo sai che parlando di te, fra le altre cose, la mamma ha detto: con tutta quella terra che ce l'ha, perché non le danno un angolino da coltivare? Non cose difficili da curare, un po' di prezzemolo, per esempio, o ravanelli. Io credo che le piacerebbe. Potrebbe essere un buon modo per passare il tempo. Davvero? Fece Mary. Ma come fa la tua mamma a sapere tante cose? Ma, replicò Marta, lei dice che una donna che ha allevato 12 figli impara molte cose oltre l'ABC. I bambini sono bravi, quanto l'aritmetica per far trovare le soluzioni dei problemi. Quanto potrebbe costare una vanga? Una piccolina? Guarda, rispose Marta, al villaggio di Thwaite, qui vicino, c'è un negozietto dove ho visto una volta 3 arnesi legati insieme con un fiocco rosso, una vanga, una zappa e un rastrello. Erano molto bellini. Mi sembrarono abbastanza resistenti. La misura è quella giusta per te. Tutti e 3 insieme costavano 2 scellini. Oh, io ho del denaro nella mia borsetta. Non so quanto è, ma deve essere più di 2 scellini, perché ho ancora quelle monete che mi ha regalato la signora con la quale ho fatto il viaggio dall'India. E poi me ne ha date anche Mrs. Medlock da parte di Mr. Craven. Oh, si è ricordato di te fino a questo punto? Esclamò Marta meravigliata. Mrs. Medlock mi ha detto che lui vuole che io abbia 1 scellino alla settimana da spendere come voglio. Lei me ne dà 1 tutti i sabati. Io lo metto nella borsetta perché mi dici tu come farai a spenderlo, anche se volessi. Mamma mia, sei proprio ricca, esclamò Marta guardando le monete che Mary aveva rovesciato sul tavolo. Ci sono più di 10 scellini qui. Senti, mi è venuta un'idea. Oh, dimmi, la incoraggiò Mary sorridendo. In quel negozio di Thwaite vendono dei pacchetti di sementi a 1 penny l'uno. Dico, sa quali sono i più belli e come fare per farli crescere bene. Lui va tante volte a Thwaite, a piedi, per divertimento. Tu sei capace di scrivere in stampatello? Io so scrivere, a stampatello non ho mai provato. Oh, ma si deve scrivere a stampatello perché Dickon sa leggere solo quella scrittura. Pensavo che si potrebbe scrivergli una lettera e chiedergli di andare a comprare per te quegli arnesi e quelle sementi. Oh, Marta, sei fantastica, gridò Mary. Sei straordinaria. Vediamo, penso che ce la farò a scrivere in stampatello. Chiediamo subito a Mrs. Medlock penna, calamaio o qualche foglio di carta. Non c'è bisogno di Mrs. Medlock, ce li ho io. Li ho comprati perché volevo cercare di migliorare la mia scrittura, facendo un po' di esercizio la domenica, così potevo mandare qualche riga alla mamma. Aspetta, vado a prenderli. Corse fuori dalla stanza. Mary si alzò dal tappeto e stette ferma in piedi davanti al caminetto. Teneva le mani appoggiate ai due lati del viso, quasi volesse trattenere la grande gioia che aveva dentro. Se avrò una vanga, mormorava fra sé, potrò lavorare la terra, renderla soffice. Sentirò quel buon profumo, potrò piantare le sementi e far crescere i fiori. E il giardino non sarà più morto, ma vivrà, vivrà ancora. Marta ritornò, portando il necessario per scrivere, ma prima di cominciare la lettera dovette sparecchiare la tavola, portare giù i piatti, mettere in ordine. Quando era in cucina, Mrs. Medlock la mise a fare qualcos'altro, così che Mary dovette aspettare un bel pezzo il suo ritorno. Le dispiaceva perché le ore passavano e lei non poteva andare in giardino. Quando Marta finalmente tornò, cominciò l'impresa di scrivere a Deacon. Mary non era bravissima a scrivere perché abbiamo visto che come scolara non era stata un granché, anzi si può dire che era stata un disastro. Faceva certamente molti errori di ortografia, però riuscì a scrivere in stampatello con una certa facilità. Marta dettava e lei scrisse: Carissimo Deacon, spero che questa ti trovi in buona salute come è di me al presente. Mary ha scoperto di avere un sacco di grana e vorrebbe che tu andassi a Thwaite a comprare per lei qualche semente di fiori e anche degli attrezzi da giardinaggio, piccoli, perché si è messa in testa di fare un'aiuola a lei. Tu scegli i fiori più belli e più facili, perché lei non sa fare niente e in India tutto era diverso. Saluta la mamma e tutti. Mary ha promesso di raccontarmi tante altre cose e così quando vengo la prossima volta vi racconterò degli elefanti, delle tigri, dei leoni e anche dei cammelli. Ti abbraccia la tua affezionata sorella Marta Sowerby. Bene, benissimo, disse Marta quando ebbero finito e riletto la missiva. Aspetta, dobbiamo mettere i soldi dentro la busta. Io darò il tutto al ragazzo del macellaio che è un grande amico di Deacon e che gliela porterà uno di questi giorni perché lui va sempre in giro con il suo carro. E poi io come farò per avere le cose che Deacon comprerà? Oh, vedrai che te le porterà lui stesso, sarà contento di venire qui. Oh, che bello! Esclamò Mary. Così potrò conoscerlo, vederlo. Sai che non pensavo mai di poterlo incontrare. Davvero hai piacere di vederlo? Oh, sì, molto. Tu mi hai detto che sa parlare con le volpi, con i corvi. Certo che ho piacere di incontrarlo. Marta si batté una mano sulla fronte. Che stupida! Esclamò. Era la prima cosa che volevo dirti stamattina, poi mi è passato di mente. Sai, ho chiesto alla mamma e lei ha detto che ne parlerà a Mrs. Medlock la prima volta che la vede. Vuoi dire? La incoraggiò Mary. Ti ricordi quello che avevamo pensato martedì, vero? Le chiederà se un giorno tu puoi venire con me a casa nostra a mangiare quella torta di avena che la mamma sa fare così bene e a bere un bicchiere di latte. Oh! Che giornata straordinaria era quella! La scoperta del giardino, la lettera a Deacon, la prospettiva di poter andare un giorno nella casa di Marta, una casa dove vivevano 11 bambini. La tua mamma pensa che Mrs. Medlock dirà di sì? Oh sì, lei dice di sì. Mrs. Medlock conosce bene la mamma. Sa che donna è. Oh, sono contenta, Marta, perché ho tanta voglia di conoscere la tua mamma. Mi sembra che deve essere così diversa dalle mamme indiane. Bene, ora vado giù a prenderti il tè. Quando Marta tornò, servì il tè a Mary e rimase in piedi vicino al tavolo per farle un po' di compagnia. Mary beve il suo tè, poi le chiese a bruciapelo: Ha mal di denti anche oggi quella sguattera? Marta la guardò imbarazzata. E come mai me lo chiedi? Perché oggi, quando sei andata giù a portare i piatti sporchi e non tornavi mai, io ero stanca di aspettarti qui, così ho aperto la porta e sono andata un po' in giro per il corridoio a vedere se venivi e ho sentito ancora quel pianto, ti ricordi? Come quella notte? Oggi non c'è vento per niente, quindi non puoi dirmi che era il vento. Beh, farfugliò Marta. Tu non devi andare a spiare per i corridoi. Mister Craven si arrabbierebbe moltissimo se lo sapesse. Non so cosa sarebbe capace di farti. Non sono andata a spiare, protestò Mary. Stavo aspettando te e ho sentito perché ho le orecchie e con questa sono 3 volte che sento quel pianto. Accidenti, senti il campanello di Mrs. Medlock. Devo andare subito da lei, esclamò Marta e corse fuori dalla stanza, lasciando lì il vassoio del tè. Oh, che razza di casa è mai questa? Mormorò Mary. Appoggiò la testa allo schienale della poltrona, gli occhi fissi alle fiamme del caminetto davanti a lei. Erano gialle, rosse e un po' azzurrine e danzavano, inseguendosi su per la cappa. Ogni tanto un legno scoppiettava e nascevano delle scintilline d'oro che si spegnevano urtandosi tra loro o urtando contro la pietra del camino. Com'è bello il fuoco, com'è allegro, che sensazione di benessere e di sicurezza dà un caminetto acceso, pensò Mary. Era stanca a causa di tutte le emozioni di quel giorno e anche perché aveva corso, saltato, lavorato nel giardino per tante ore e così. Nel tepore della sua camera quasi buia ormai, si addormentò. Capitolo 10. Dicon. Il sole brillò sul giardino segreto per 2 settimane di seguito. Giardino segreto era il nome che Mary gli aveva dato prima di trovarlo, quando fantasticava di poterci entrare un giorno. E così continuò a chiamarlo perché quel nome le piaceva, c'era in lui. Il lato misterioso di tutta la storia e l'augurio che il giardino rimanesse per sempre suo, segreto, tutto per lei, senza che nessuno lo scoprisse mai. Era un angolo incantato, un luogo di incantesimi come quelli di cui le parlava la sua Aya, dove tutto era possibile. Una volta, in uno dei suoi libri, aveva letto una fiaba che parlava di una principessa che aveva dormito per 100 anni in un giardino simile a questo. Lei, Mary avrebbe fatto tutt'altro che dormirci dentro. Cominciava ad amare la vita all'aria aperta. Anche verso il vento il suo atteggiamento era passato dall'odio all'amore. Il vento l'aiutava a correre più in fretta adesso se le soffiava alle spalle e la incitava a saltare se le veniva incontro. I bulbi nel giardino segreto sembravano meravigliati avere tanto spazio pulito intorno a loro e respirando meglio stavano sviluppandosi a meraviglia. Il sole li riscaldava e la prossima pioggia li avrebbe rinvigoriti in modo tale da farli crescere e diventare belle piante fiorite. Mary aveva un carattere tenace e quando trovava qualcosa che doveva essere seguita, andava fino in fondo senza stancarsi. Prese d'impegno il suo lavoro nel giardino. Ogni giorno andava a guardare se erano spuntate nuove erbacce intorno ai suoi germogli e quando le trovava le sradicava ad una e più il tempo passava, più, invece di stufarsi, si appassionava. Era felice tutte le volte che scopriva un nuovo puntino verde chiaro che il giorno prima non c'era. Ne aveva trovati già così tanti che non riusciva a contarli. Pensava a quella frase di Marta: «Fioriscono a migliaia!» riferita alle giunchiglie gialle, e le veniva fatto di pensare: «Anche i miei bulbi devono essere a migliaia. Per 10 anni nessuno li ha disturbati e loro si sono moltiplicati. E moltiplicati!» Mary aveva una voglia matta di vedere quali fiori sarebbero sbocciati in mezzo a quelle foglie che erano tutte, beh, se non uguali, assai simili. Cercava di immaginarsi il giardino fiorito, ma non conosceva altro che i nomi dei fiori che le avevano detto Marta e Ben. E non li aveva mai visti, quindi non aveva la più pallida idea di come fossero. Il tempo si mantenne sereno, come abbiamo detto, per 2 settimane, e Mary ebbe occasione di incontrare il giardiniere varie volte. Aveva imparato una piccola astuzia, gli capitava davanti all'improvviso per impedirgli di andarsene, come aveva fatto qualche volta, vedendola da lontano dirigersi verso di lui. Mary aveva proprio bisogno di stare a chiacchierare un po' con lui adesso, sia per chiedergli come fare certe cose, sia per guardare come faceva lui, come sistemava le sementi, come curava le piante, come usava gli attrezzi. Ben era ora più ben disposto verso di lei. Tutti e due avevano capito varie cose l'una dell'altro. Mary aveva smesso quel suo tono freddo e arrogante quando chiedeva qualcosa e lui aveva pensato che in fondo quella bambina così sola aveva bisogno di essere compatita più che sgridata o maltrattata e d'altra parte era anche lusingato dal fatto che lei lo venisse a cercare. «Sei proprio come il petirosso», le disse un mattino, quando sollevando la testa se la vide davanti. «Non so mai quando e da dove sbuchi. Sai Ben che siamo diventati amici adesso, il petirosso ed io?» «Bene», approvò il vecchio. «È un bel tipo, lui. Quando vede qualcuno che gli presta attenzione, è tutto orgoglioso E non si sa cosa farebbe per farsi vedere bravo, oltre che bello. Ti ha fatto vedere come sa aprire a ventaglio la spacoda? Era divertente, Ben, quando era di buon umore come quella mattina. Di solito non era molto disposto a parlare e rispondeva con dei grugniti se qualcuno gli chiedeva qualcosa, ma quel giorno era un giorno buono. Smise per un attimo di lavorare la terra e, buttandosi il berretto verso la nuca, disse, guardando Mary e sorridendole: Ma è già un pezzo che sei arrivata qui, è vero? Oh, credo da un mese più o meno. Si vede che a Misselthwaite c'è l'aria buona, scherzò lui. Sei migliorata un bel po' da quando sei qui. Non sei più così gialla e immusonita come la prima volta che ti ho vista in questo orto. Parola mia, mi sei sembrata una cornacchia spelacchiata allora. Mary non era vanitosa e non si era mai curata molto del suo aspetto. Perciò non se la prese a male, anzi rise. Sono anche ingrassata, disse. Prima i calzini mi facevano le grinze sulle gambe, ora mi vanno un po' stretti. Oh, ecco il nostro amico. Ed eccolo il petirosso. Era in vena di bravure. Saltellava, gorgheggiava, alzava la testa, la piegava di lato, si lisciava le piume col becco. Arrivava vicino alla vanga di Ben, tornava indietro, cercava qualche insetto tra le zolle, volava sul ramo di un albero e tornava giù. Sì, fai, fai, gli disse Ben. Tu ti ricordi di me solo quando non hai altro da fare, eh? Non ti sei fatto vedere da un bel pezzo e ora ti presenti tutto bello, lustro, liscio. Mi sa che stai corteggiando una pettirossina, eh? E certamente sarà molto bellina, vero? L'uccellino volò su un cespuglio lì vicino e trillò più e più volte, sempre guardando Ben. Credi di essere irresistibile, eh? Credi di farmi andare in brodo di giuggiole? Gli disse il vecchio, mentre le rughe che gli increspavano il volto correvano tutte a radunarsi agli angoli degli occhi e della bocca, nello sforzo di non mostrare come in realtà fosse contento di quel colloquio. Il petirosso aprì le ali e Mary lo seguiva senza poter quasi credere ai suoi occhi. Andò a posarsi proprio in cima al manico della vanga di Ben, a pochissima distanza dal viso del vecchio. Tutte le rughe del viso fecero una corsa all'indietro e il giardiniere non poté fare a meno di sorridere. Non mosse un dito, sembrava quasi che non respirasse neppure per paura di far scappare l'uccellino. Accidenti, bisbigliò, hai ragione tu, sei proprio bravo, sai davvero come arrivare al cuore della gente. Rimase immobile fino a che il pettirosso non aprì di nuovo le ali e volò via. E ancora Ben non riusciva a distogliere lo sguardo dal manico della sua vanga. Poi si scosse e si rimise a lavorare in silenzio. Mary friggeva dalla voglia di fargli qualche domanda e pensò che il momento fosse favorevole perché sul viso di Ben c'era un sorriso sereno.